partire dalla fine del secolo, il Partito Socialista, più o meno sul modello tedesco, organizzativamente, come partito di massa, abbiamo il rapporto del deputato singolo con l'insieme del Parlamento e col governo, cioè il deputato non inquadrato in un partito o un gruppo parlamentare. Abbiamo le vecchie associazioni, partai-file, su base locale, e abbiamo in più, questo non va dimenticato, tutto un movimento estremamente organizzato, quello clericale, che però non si può costituire ufficialmente in partito, che è il no opposto della Santa Sede. Cioè abbiamo un sistema di associazioni clericali, elettorali, sociali, bancarie e tutto, cioè tutta una subcultura che si è del tutto separata in contrapposizione all'elite liberale e allo Stato liberale, organizzata capillarmente, che agisce per certe cose come partito, quanto mai, che però formalmente non costituisce un partito. Quindi anche questa è una cosa un po' particolare, molto più spiccata che in Germania, dove sì, l'associazionismo clericale è il supporto dello Stato, ma esiste un partito ufficiale clericale. Io vorrei ora trattare molto schematicamente, per necessità di tempo e anche per una situazione molto difficile di fonti e di studi, in tre fasi il problema liberali come partito nel Parlamento e nel Paese, e uno dall'avvento della sinistra fino all'inizio del trasformismo, l'altro negli anni 90, e abbiamo lì la crisi di partecipazione e l'inizio di crisi di distribuzione in Italia, che politicamente è una crisi di regime molto profonda, l'età giudiziana, dunque dopo il take-off economico, con una politica molto lungimirante di integrazione e di allargamento della base dello Stato liberale con dopo la giolizia. Io ho scelto per il riassunto volutamente per l'avvento della sinistra nel 76 e il termine Machtwechsel, con le associazioni proprio al clima molto passionale della Germania del 79. Perché non condivido la corrente idea che tutto sommato destra e sinistra siano stati largamente un brodo, come si dice in italiano? Brodo. Lo stesso brodo, cioè. Secondo me, e basta vedere la reazione molto passionale e la permanenza fino oltre la fine del secolo di profonda assidia, astio da parte degli eredi della destra caduta nel 76, è stato un cambio notevolmente profondo, un ricambio di elite contraddistinte da modelli culturali e basi sociali molto differenti, che, dove poi la sinistra con una politica di democratizzazione via la scuola obbligatoria per tutti, che poi non si riesce a realizzare, ma è una delle prime riforme, l'allargamento del suffragio, che secondo me ha profondamente cambiato il corpo elettorale italiano, immettendo ceti urbani in medio-bassi e bassi, in una misura che ha costituito una rivoluzione nei singoli collegi, e che soprattutto era intenzionalmente un processo di arrivare gradualmente al suffragio universale. Perché con l'idea, cioè, bisogna forse spiegare una cosa: la nuova legge elettorale sostituiva essenzialmente, non entro nei particolari, l'idea della capacità espressa nell'alfabetismo, di saper scrivere e leggere, legato all'obbligo, cioè all'aver fatto 3 anni di scuola, ha l'idea detta del censo, di pagare un certo minimo di tasse, abbassa anche il censo, non entro nei tassi, ma l'idea centrale era questa. Se si fa la scuola obbligatoria per tutti, questo significa che entro un certo tempo si ha un paese di gente che ha fatto la scuola, dunque il suffragio maschile universale. Questo era chiaramente connesso nel programma della sinistra, e questo avrebbe avuto un effetto ancora molto maggiore di quello che è successo effettivamente. Ma già la riforma dell'82 rivoluziona il corpo elettorale. Dunque, secondo me, un Marx. E questo Marx lo vedo come un catalizzatore per i liberali di organizzarsi. E credo che in questo momento arriviamo al primo momento culminante nella storia dell'organizzazione politica nel Parlamento e nel Paese dei liberali italiani, nel 76-77. Questo riguarda sia i vinti che vogliono la rivincita alle elezioni, non so se da parte dei tedeschi o se è noto l'avvenimento della sinistra, che non è effetto di una elezione, ma di un distacco in Parlamento della destra liberista toscana e dei centri dal grande governo della destra Minghetti. E allora alle prossime elezioni la destra vorrebbe ritornare al potere, e è ugualmente uno stimolo potentissimo per la sinistra vincitrice. Questi sforzi organizzativi non erano fatti sul nulla. Infatti il liberalismo italiano, in tutte le sue gradazioni, aveva già una ricca esperienza organizzativa. Per primo ricordiamo le forme di organizzazione, di associazione non di partito, in associazioni vereine. Questo è un parallelismo anche con la Germania. In parte era legato al fatto che fino al 48 neanche in Piemonte era possibile avere un'organizzazione partitica per ragioni legali. E lì ricordo solo l'importanza dell'associazione agraria nel Piemonte, che era molto più che un club dove si parlava di barbabietole e cose del genere, era un surrogato di partito con una lotta durissima dell'ala democratica che spodesta i moderati, e anche per composizione sociale, perché non è solo gente proprietaria, terriera, ci sono le professioni liberali, persino qualche primo industriale, funzionari e tutti. È chiaramente un surrogato di partito, penso all'altro tutte l'importanza dei geogofili, l'importanza delle associazioni di eruditi, eccetera, che hanno un ruolo centrale. Questo è il primo tipo di esperienza organizzativa dei liberali. Ma dopo il 48 in Piemonte, dopo il 60, pure naturalmente c'è una larga esperienza di associazioni partitiche su base locale. Ci sono le esperienze miste, il ruolo della società nazionale, che nelle prime elezioni ha anche svolto funzioni elettorali tipiche di un partito. Dunque i confini sono estremamente oscillanti, anche questo ha per altro un parallelismo nell'analoga nazionale in tedesco. Che ha preso il nome anche dall'Italia, questo oggi. Vielleicht nicht allgemein bekannt ist, dass der deutsche Nationalverein seinen Namen und sein Vorbild der Lega Nationale, Società Nationale, genommen hat. Ich weiß nicht, spreche ich zu schnell? Geht es? Wenn irgendwas ist, sagen Sie. Terzo punto. Organizzazione nel Parlamento. Nel Parlamento essenzialmente su una base di un comportamento, io direi, paragruppo parlamentare dell'insieme della maggioranza, e E in certi momenti, quando abbiamo veramente un funzionamento parlamentare impostato su una maggioranza e una opposizione, dell'opposizione. Però al di sotto di questo, anche il formarsi di gruppi, penso alla permanente o a terzi partiti, i raggruppamenti più articolati, e soprattutto una cosa troppo poco considerata, il grande ruolo di raggruppamenti molto poco articolati, molto poco solidi, quasi informali su base regionale, cosa tipica delle prime fasi di parlamentarismo, l'enorme ruolo del fattore regionale. I parlamentari della Lombardia, i parlamentari calabresi, i parlamentari siciliani fanno gruppo. E l'abbiamo visto appena nel 76, la destra che si stacca per opposizione nella questione ferroviaria, per la questione delle ferrovie, è in buona parte, non esclusivamente, ma il nucleo duro, è il gruppo toscano della destra. Cioè abbiamo praticamente, e questa è una cosa che perdurerà molto a lungo, il fattore regionale come primo fattore di organizzazione o raggruppamento, coagulazione parlamentare. In molti gruppi, anche dandosi una bandiera politica, un leader personale, manterranno un po' questo fattore regionale. Peraltro, il legame regionale perdurerà in maniera molto, che colpisce assai, anche dopo il 1900. È molto concreto che dopo il 1900 che i parlamentari di una regione si riuniscano con tanto di pubblicità, niente da vergognarsi, e prendono come tali posizioni su problemi economici, fiscali e cose del genere. Dunque abbiamo questa situazione. Cosa succede? Io dicevo, tutti e due, vincitori e vinti, si organizzano. La destra dà vita alle associazioni costituzionali, come si chiamano. Già il fatto che un po' in tutta l'Italia si sceglie lo stesso nome è indicativo, ma si fa di più. Queste associazioni avranno un centro in un comitato centrale su base nazionale, dunque si arriva al coordinamento a livello nazionale, una specie di direzione di partito, e che avrà una parte non piccola nella scelta e soprattutto via endorsement delle candidature dell'opposizione della destra nelle elezioni del 76. Poi questa specie di direzione, questo comitato centrale che siede a Roma, cercherà di promuovere in questi anni che seguono il 76 la elaborazione della politica della destra, cosa estremamente difficile peraltro per i dissidi continui nella destra fra una linea Minghetti e una linea Stella, che fra l'altro ti avrei ieri domandato molto volentieri dove lo metti fra le due anime, essendo uomo del nord, industriale, eccetera, e portatore di un ruolo molto attivo dello Stato, eccetera. Dunque avrei una terza anima. Sui grandi questioni anche della riforma elettorale, eccetera. E si pone lì il problema come la mettiamo con ciò che rimane e è in modo spontaneo di raggruppamento parlamentare della destra parlamentare. Il problema un partito nel paese extraparlamentare e il rapporto con quello che non si chiama ufficialmente gruppo parlamentare ma agisce come tale. E la sinistra si organizza ugualmente e molto rapidamente. Abbiamo nel 76, a partire dalla primavera, un fiorire di società che molto spesso si chiamano società o associazioni progressiste. Anche loro, e questa è la sinistra un po' tutta, ma con particolare forza e presenza, il nucleo più deciso di liberali di sinistra, per fare i nomi Cairoli e Zanardelli. ma non esclusivamente, assolutamente. Anche loro si danno un'organizzazione centrale, ma forse vale la pena avere un'idea un po' come si fa. Rimane in questo tempo anche fra chi maggiormente partecipa allo sforzo di organizzazione c'è proprio l'idea del ruolo centrale del giornale. Se si vede la corrispondenza nel tempo, è un continuo, insomma, la destra ha questi giornali, il Nicotera, che faceva una politica che si potrebbe chiamare pre-centrista, cioè cercando di agganciare la destra dissidente, i centri, e di staccare la sinistra più avanzata liberale, ha il suo giornale e noi siamo senza, e dunque il giornale come strumento principale di organizzazione, di penetrazione, come surrogato di partito. Però abbiamo anche l'organizzazione. E lì, per esempio, in pochi mesi a Brescia, Roccaforte di Zanardelli, l'associazione locale raggiunge 800 iscritti. E che è considerevole. Se oggi l'avessero, sarebbero senz'altro felici. Si dà un comitato centrale progressista che è molto attivo nelle elezioni e deve affrontare il problema di un'attività parallela del Ministero dell'Interno, che fa una politica diversa, cioè molto più puntando sull'alleanza con destra dissidente, assorbimento di centri, eccetera, mentre il comitato progressista è il comitato della sinistra vera e propria. È chiaro che in questa situazione si tratta molto spesso di una decisione fra vari candidati che localmente emergono e chiedono l'endorsement centrale come il candidato della sinistra, ma cercano in questa maniera anche di mantenere il partito abbastanza difeso dall'opera proprio del Ministero, che cerca di trasformare il partito, cercano di avere un certo equilibrio tra le varie componenti, dai radicali, ai quali dovremmo subito soffermarci, fino alla parte più vicina alla linea di centro all'interno della sinistra. Terza componente, molto difficile da delimitare rispetto ai progressisti, i democratici radicali. Fra poco si costituirà, un anno dopo, un Parlamento come estrema sinistra, questo si evita lunghe definizioni, si tratta in fondo di quel nucleo di democratici ex repubblicani o ancora repubblicani che accettano la battaglia all'interno delle istituzioni, la partecipazione alle elezioni. E questo è il punto più a sinistra di questo raggruppamento. A destra congloba anche una parte di liberali di sinistra molto avanzati. E avremo fino alla fine del secolo, infatti, una osmosi continua fra l'ala destra o la frangia destra di questa estrema sinistra e il liberalismo zanardelliano, cairoliano, passaggi continui. Peraltro i rapporti personali sono intimi, ottimi, non è una concorrenza. Il leader di questo raggruppamento, Bersani, si concepisce un po' come la pattuglia avanzata della sinistra. Queste società, dunque queste forze, costituiscono dal 76, nella speranza dell'allargamento del suffragio, questo è molto chiaro, delle società democratiche. Non è che prima non ci fosse organizzazione, ma c'è un'ondata di fondazioni, con una società a Milano che si propone di essere di diventare una società nazionale, che peraltro non riuscirà in questo compito. Queste associazioni sono un po' diverse, quelle liberali erano incentrate a livello locale sulla funzione elettorale, quelle democratiche, che spesso conglobano anche non elettori, hanno allo stesso tempo un carattere anche di società per la promozione della cultura politica, dell'emancipazione dei ceti subalterni, hanno quella gamma più vasta di attività. In sede parlamentare la destra d'opposizione è abbastanza organizzata, si comporta con il gruppo parlamentare. Nella sinistra abbiamo il problema: cosa si fa? È il governo il centro delle forze parlamentari della maggioranza e della sinistra, oppure organizzazione autonoma parlamentare della sinistra? Infatti, tra il 76 e il 77, intorno a questa questione, che può sembrare puramente tecnica, teorica, forse a qualcuno, abbiamo una lotta sorda, tenace, perché la questione, da una parte il governo è il comitato, come adesso si diceva, della maggioranza, e a lui spetta organizzare in Parlamento i suoi sostenitori, a lui fa capo la maggioranza, oppure la sinistra, e lì cambia già il linguaggio, e vedremo perché, è un partito e come tale si dà un'organizzazione con un comitato direttore. È una questione in cui si intrecciano molto strettamente due questioni: il rapporto tra gruppo parlamentare, come diremo oggi, e esecutivo, cioè praticamente abbiamo un gruppo parlamentare che costituisce ciò che gli avversari di questa soluzione chiamano subito un comitato di sorveglianza, e anche peggio, nella discussione giornalistica, cioè una specie di grande controllore al di fuori del Parlamento contro il governo, al popolo, al di sopra del governo, con un'altra questione: i fautori dell'organizzazione autonoma della sinistra vogliono con questo anche riaffermare che è la sinistra la base del governo e che bisogna governare con il programma del 76 della sinistra, mentre i fautori della prima soluzione, il Presidente del Consiglio dei Preti, Nicotera, eccetera, tentano di fondere in sede parlamentare tutta la maggioranza, cioè i centri e la destra dissidente, sì, riprendendo un'idea sviluppata da Nicotera 2 o 3 anni prima, che diceva l'opposizione, tra la sinistra e l'opposizione, può avere due concezioni del tutto diverse: una è l'opposizione a prioristica intransigente che dice no a tutto, e l'altra il ricambio che domani diventa governo, che mirava a isolare e buttare fuori tutta l'ala che ho chiamato democratici radicali e anche la sinistra più avanzata, Cairoli Zanardelli. Allora, se si organizzava tutta la maggioranza, ma in una maniera accentrata dal Ministero dell'Interno, questo significava: facciamo la grande maggioranza che avrà il suo asse più o meno intorno a Nicotera e al centro, e non tagliamo più troppo di sottaggio allargato, o allarghiamolo tranquillamente, non tagliamo troppo rapidamente di certe riforme, cerchiamo una via mediana fra il governo della destra e il programma della sinistra avanzata. Se si sceglieva l'altro, si diceva: noi siamo questo partito, sì, gli altri gruppi, centri e questa dissidente, votano con noi, no problem, ma noi vogliamo che il governo rispetti il nostro programma di riforme molto rapide, democratizzazione, eccetera. Io risparmio loro i particolari di tutta questa discussione, tutte le argomentazioni, e vengo subito al risultato. Sì, la sinistra caroliana, zanardelliana, riesce a costituirsi in gruppo parlamentare nella primavera del 77, rompe clamorosamente nel novembre 77 con dei Preti, c'è una riunione indetta di tutta la maggioranza affinché la maggioranza si costituisca come tale, che era la risposta di Pepiusina per accontentare almeno questo bisogno di organizzazione. Loro escono, c'è un bellissimo articolo di Santi su questa scena, e si costituisce poco dopo l'estrema sinistra come gruppo parlamentare indipendente o partito parlamentare, i nomi cambiano molto. Abbiamo dunque questi raggruppamenti, ma complessivamente De Pretis vince, e questo è il primo grande scacco e il precedente per quello che chiamerei la disgregazione dell'organizzazione politica parlamentare dei liberali. Vince la linea della maggioranza che abbia il suo capo, la sua ispirazione al Ministero dell'Interno. E questo processo della disgregazione e del calo, dunque l'onda sta andando giù, la linea dell'onda dall'apice 76-77 si sviluppa rapidamente nelle elezioni del 82 a suffragio allargato, con l'inizio del trasformismo. E lì forse bisogna un momento spiegare alcune cose, o almeno chiarire quello che io intendo per trasformismo. Secondo me non è né una questione di carattere nazionale, né di una permanente saggezza di statista centrista da Cavour a De Gasperi, a Moro o qualcosa, come si è detto a volte, ma è una precisa strategia politica alternativa alla linea della sinistra cairoliana, tanodeliana, che vuole avere un raggruppamento di riforme rapide, democratizzazione, eccetera, che va dai radicali fino a il più possibile che si possa raggruppare della sinistra centro-sinistra, e che prende posizione contro ciò che intende come conservatori, la destra moderata. L'alternativa è di unire in una grandissima, grande coalizione il più possibile della destra con la sinistra moderata e i centri, isolando i radicali, facendo una specie di union sacrée dove maggioranza di governo tende spesso a coincidere con schieramento dei difensori del sistema, lasciando fuori la posizione clericale antisistema sull'estrema destra e buttando i radicali nell'angolo morto dell'opposizione antisistema, dove stanno i repubblicani astensionisti, eccetera. Una coalizione di juste milieu che è d'accordo sul rallentamento massimo del moto di democratizzazione e che peraltro nei rapporti con i clericali oscilla tra anticlericalismo e utilizzazione elettorale del potenziale di cattolico. Dunque abbiamo visto è essenzialmente una grande Sammlung, Bewegung, che cerca di squalificare l'opposizione dei liberali più avanzati come radicali non del tutto leali alle istituzioni, influenzati dai radicali e perciò dai repubblicani, eccetera. E questa operazione promossa da De Pretis aveva il suo centro nel governo nelle elezioni del 82, questo si può vedere molto bene a livello dei colleghi, presuppone, e questo è quello che a me interessa qui, di spaccare sia la destra che la sinistra, i vecchi partiti, e implica senz'altro una riduzione del ruolo di partito comunque, il rapporto governo singolo deputato diventa assai più importante e più che mai al centro del sistema politico, con una maggioranza dove eventualmente ci sono trasformazioni, dove ci sono delle maggioranze cambianti secondo i vari temi. Un buco della maggioranza sulla questione ecclesiastica si tappa magari più a destra, mentre domani su un'altra cosa di questioni sulla destra si tappano a sinistra. Nel 82 effettivamente già non c'è più quasi nulla di questo schema che ho delineato nel 76-77. Rimane a destra un gruppo di posizioni d'opposizione sulla destra intransigente, mentre Minghetti fa appunto con dei freschi questa operazione del trasformismo. E rendiamoci conto di una cosa, è proprio la risposta di Minghetti all'allargamento del suffragio con questa potenzialità di suffragio universale, dopo che le sue strategie sono fallite, decentramento, dopo che anche il suo disegno del parlamentarismo senza partiti minacciava di non verificarsi proprio con questo sviluppo dell'organizzazione, eccetera. Rimangono fuori il gruppo parlamentare dell'estrema sinistra e in opposizione al trasformismo si costituisce la cosiddetta pentarchia, un raggruppamento di liberali di sinistra, tra di loro peraltro abbastanza eterogenei, che, e questo vorrei sottolineare, non riesce già più a avere tutta questa gamma, organizzazione parlamentare, nei collegi, nel paese, eccetera, e pubblicistica. La pentarchia è puramente parlamentare e giornalistica. Negli anni Ottanta abbiamo, a prescindere da queste tre forze, essenzialmente un quadro di disorganizzazione parlamentare, raggruppamenti molto effimeri, sporadici o incentrati su personaggi o su singoli problemi, cioè la opposizione contro un certo tipo di politica coloniale o cose di questo genere, o invece contro la rinuncia alla politica coloniale sulla politica finanziaria, ma non più dei partiti parlamentari con un programma generale. Destra e sinistra esistevano negli anni Ottanta in quanto fra autori del trasformismo di Petitino o avversari suoi a livello organizzativo essenzialmente a due livelli: quello dei giornali, sempre più surrogato di un'organizzazione partitica nazionale, perché anche se erano giornali di provincia venivano letti in quanto organo del tale capo partito. Il giornale di Zanardelli a Brescia non era un giornale locale, veniva letto da tutti i parlamentari per sapere cosa ne pensasse Zanardelli, era come un'agenzia stampa più intervista alla RAI. Quanti giornali da comprare allora? Sì. E sul livello locale, provinciale e a volte regionale, perché ci sono associazioni che si espandono in tutta la provincia, o anche a volte tutta una regione. Questi sono i due livelli e si vede essenzialmente la funzione di queste associazioni partitiche locali, provinciali e regionali nella lotta elettorale. Questo è detto anche chiaramente negli statuti, ancora fino al 1914. Si vede molto meno nella questione partito-organizzazione la aggregazione di domande politiche, si vede abbastanza, ma nella discussione, non nella vita quotidiana, non nel lavoro in queste associazioni, la questione di formare, costituire, selezionare delle elite politiche da offrire anche come personale di governo. È molto incentrato sulla questione del guadagniamo o perdiamo le elezioni. E allora come funziona questo parlamentarismo organizzato, senza partiti o come si vuole chiamarlo? Qui dobbiamo già occuparci un momento di presupposti istituzionali. E questo Parlamento, la Camera dei Deputati, era organizzata in una maniera che non richiedeva l'organizzazione in gruppi parlamentari e non favoriva questa organizzazione. E lì bisogna purtroppo diventare un pochino tecnico. Come loro sanno, esistevano essenzialmente nel 800 tre tipi di organizzazione interna di un Parlamento per quanto riguarda l'esame delle proposte di leggi. Esistevano le tre letture, che il sistema delle commissioni permanenti, che allora era in uso soprattutto in America, e le commissioni permanenti avevano una sorte molto triste, perché nell'Europa continentale quasi tutti associavano la commissione permanente con i comitati di salute pubblica della rivoluzione francese. C'era una gran paura, loro avevano questa terribile sorte di evocare e suscitare subito lo spavento giacobino, e anche c'era un altro aspetto, a un livello molto più tecnico, la paura dell'aula di essere spodestata da commissioni permanenti. E allora arriviamo al terzo sistema. Nel 1848 la Camera subalpina adotta, quando deve darsi un regolamento, perché arriva la potestà regolamentare, adotta il regolamento del Parlamento francese del 14, corretto nella variante di quello del 30, con correzioni prese dal regolamento belga. E corretto, in un momento in cui tra l'altro la Francia va a tutto un altro sistema, e anche questa è la chiara risposta, unicamerale, indennità, un sistema di prelezione. Chiaramente si sceglie il modello creato dai doctrinaires, con tutte le garanzie, tutti i contrapesi, e questo era il sistema degli uffici, dei bureaux, come si chiama in francese, che esisteva nel Reichstag del 70 ancora, come Abteilungen. E come funzionava? Il Parlamento si divide in 9 uffici o Abteilungen, cioè dei micro-parlamenti estratti per sorte. Cioè abbiamo 9 micro-parlamenti che oltretutto come composizione ruotano molto rapidamente, ogni 2 mesi o ogni mese, questo cambia un po'. Questo cosa significa? Cioè, prima di finire di spiegare come funziona questa macchina, il progetto di legge viene esaminato da ciascuno di questi 9 uffici, o lo stesso giorno, come può prevalere in giorni diversi, in extenso, ma in una discussione generale, cioè non articolo per articolo, e questi uffici eleggono ciascuno 1 o 2 commissari. Questi eletti costituiscono una commissione ad hoc solo per l'esame di questo progetto. Questa commissione poi fa l'esame particolarizzato, non continuo standard col governo, e nomina un relatore che poi si inserisce, poi c'è il dibattito in aula. Politicamente cosa significa questa storia? Significa rotazione, dunque instabilità estrema, casualità della scelta dei componenti. Questo significa l'opposto sia di quello che richiede il sistema delle preletture, cioè col plenum, nell'aula, cioè aula in tedesco corrisponde alla nostra espressione tecnica plenum of Deutsch, dove solo un'organizzazione in gruppi parlamentari permette un lavoro qualsiasi, ma anche delle commissioni permanenti che richiedono più o meno un'organizzazione in gruppi parlamentari, formali o non formali. Il nesso era molto chiaro ai contemporanei, già nel 50, io ho ancora delle citazioni, ecco, già nel 50 un relatore su un problema di un nuovo regolamento dice: l'idea di commettere alla sorte la formazione degli uffici fu certo generata dalla considerazione che la sorte, non conoscendo partiti politici, gli uffici così costituiti avrebbero presentato tante fazioni deliberanti dell'assemblea, nelle quali le fazioni politiche, che certo non erano colte, venivano un tanto paralizzate, che il voler amalgamare i partiti ne sia stato il motivo principale, eccetera, eccetera, eccetera. E è interessante che continuamente si dibatta al Parlamento l'adozione del sistema delle preletture, proprio per promuovere la cosiddetta divisione dei partiti. Ci sono altri aspetti per esempio, cioè, esistevano commissioni permanenti, ma solo per poche questioni, la più importante, trattati di commercio, eccetera, dunque un ruolo molto limitato delle commissioni permanenti. E è interessante che nel 19, con l'introduzione della proporzionale, c'è un rivolgimento del meccanismo del Parlamento, perché il nuovo regolamento imporrà l'organizzazione in gruppi parlamentari dei deputati, istituirà il sistema delle commissioni permanenti, che è un nesso molto preciso, un po' meno preciso di quello che si crede, sempre un po' meno meccanico, adesso questo si ritroverà. Ci sono altri aspetti che risparmio loro, il ruolo del Presidente, eccetera, eccetera, perché altrimenti... Gli anni 90, secondo me, davano una situazione, o avrebbero potuto dare una situazione ottimale per promuovere una nuova spinta all'organizzazione partitica. Da una parte, quell'era of good feeling di Cristina era passata, il tentativo cristino di irrobustire questa formula altra via era fallito, stava per fallire, per essere più preciso. D'altra parte c'era poco consenso sia sulla questione politica economica doganale, sia sulla politica estera, che sui problemi di partecipazione, eccetera. C'era ancora una lotta abbastanza, una discussione abbastanza in corso. Non siamo ancora con il stato italiano, che alcune opzioni sono ormai considerate da una travolgente maggioranza come assistite. In più abbiamo una crisi di partecipazione che si è resa molto più acuta negli anni 90, comincia la crisi di distribuzione, abbiamo la industrializzazione che è già su buona via, abbiamo in più, questo va visto soprattutto, una pressione esercitata dal insomma, di concorrenza organizzativa elettorale enorme da parte dei clericali, questo si sente a livello di elezioni amministrative, e delle altre opposizioni antisistema, quella repubblicana e quella socialista nascente, come anche da parte dei radicali che si organizzano. La estrema sinistra in questo periodo si articola in socialisti, repubblicani e radicali come partiti a sé stanti. I radicali cercano di porre la loro candidatura molto seriamente. E allora sono date tutte le spinte per organizzarsi in partito. Infatti il tema è quanto mai dibattuto nella pubblicistica liberale e nei discorsi. Assistiamo a una rinascita della sinistra col governo Giolitti, Zanardelli, e per questo rimando all'articolo di Manacorda, così ci liberiamo qui della gestione. E vorrei concentrarmi un momento sulla nascita di una nuova destra nella Lombardia, che si contrappone alla vecchia destra chiamata consorteria, nobiliare, aristocratica, agraria, molto con una forte tendenza a rinchiudersi in un'oligarchia dopo la sua caduta, una destra che si vuole porre come partito dell'industrializzazione, dello sviluppo economico, che si presenta però non solo con un programma spiccatamente antistatalista e liberista, economico, incentrato sulla riduzione della spesa pubblica drasticamente e perciò anti-espansionistica, per la riduzione delle spese militari, niente striplice, niente colonie, tutte queste cose ben note, spiccatamente, rabbiosamente antiburocratica, antisocialista, ma si presenta anche con un largo programma, è diverso programma di partito, che capisce alcune cose, per esempio il problema di dare un supporto culturale a questo programma politico di partito dello sviluppo economico. È emblematica la figura di Giuseppe Colombo, non grande industriale, ma grande scienziato, tecnico, già una figura che allo stesso tempo manager, mecenate, rettore del Politecnico a Milano, deputato, non direi teorico, ma comunque un uomo che formula con molta limpidezza e chiarezza il programma del partito. E questo è interessante, è un partito che si concepisce come liberale antidemocratico. E cosa vuol dire per loro democratico? Vuol dire, ci sono delle citazioni che anche le risparmio, democratico uguale a socialismo, autoritarismo, militarismo, cesarismo. Punta sul liberalismo, molti contatti con Pareto, Pantaleoni, eccetera. Questo gruppo cerca in parte un rinnovamento ideologico e la rivista L'Idea Liberale, per cui pure esiste uno studio, lì c'è un tentativo di recuperare il positivismo, pensa, molto forte queste due componenti, e c'è un'idea che serpeggia la scienza politica come l'unica risposta valida, il positivismo, ai miti che sono la forza dei due movimenti di massa, clericale e socialista. Peraltro questo rinnovamento fallirà a causa del problema, cioè della resistenza di una parte di questo gruppo di prendere posizioni che implicano una rottura ideologica che avrebbe delle punizioni elettorali con i cattolici, troppo spiccata. Questo gruppo è regionalmente compatto, pone il problema del rinnovamento organizzativo, attaccano virulentemente queste organizzazioni che fondano i vecchi patrizi della perseveranza, hanno l'idea di fare non solo un po' di politica due settimane prima delle elezioni, ma permanentemente l'idea della formazione politica è molto viva, si comincia verso con scuole per oratori e propagandisti, e l'idea di elaborare centri studi si fanno. Veramente, perché non immaginiamoci una cosa terribilmente perfetta, ma è interessante che si cominci a farlo. Il proselitismo attivo, l'allargamento numerico, loro non hanno alcuna paura di andare al di là del vecchio ceto, della vecchia associazione costituzionale che arriva ai suoi 200 membri, dove la parte del popolo era magari rappresentata da un direttore d'orchestra, fra tutti i nobili milanesi. Socialmente tutto un altro profilo queste associazioni. Dove non manca affatto l'elemento aristocratico lombardo, ma sono anche lì due, una aristocrazia molto staccata. Questo gruppo dunque si pone la questione di non solo regionalmente compatta, culturalmente relativamente compatta, agisce in Parlamento senza costituirsi ufficialmente in gruppo in maniera piuttosto compatta, e si pone la questione di fronte a questa situazione di crisi, pressione di democraticizzazione, attacco dei socialisti, queste cose, di costituirsi a partito nazionale. Nel 99 viene convocato un congresso delle associazioni liberal-conservatrici in Italia, un bel lungo elenco. Organizzatore Giovanni Borelli, il cui nome vale la pena di ricordare, e che continuerà con questi tentativi. Però la cosa fallisce, anche perché la posizione non è molto chiara, si lasciano in parte che si possa travolgere del tutto nella politica di reazione fatta in maniera molto goffa dal generale Pellù negli ultimi alla fine del secolo. Questa cosa fallisce, ma è un primo tentativo interessante. Secondo tentativo, Sidney Sonnino, che qui non ho bisogno di presentare, sviluppa un programma di difesa contro gli avversari del sistema su due linee. Trasformazione indietro, cioè riduzione del sistema parlamentare a sistema costituzionale, appellandosi alla lettera dello Statuto Albertino, che era una costituzione del modello costituzionale, ma in Italia molto rapidamente, per primo i liberali avevano dato per tranquillo e sottinteso che la costituzionalismo si esplicasse nel regime parlamentare e poi dopo pochi anni la cosa è tranquilla anche a livello dei rapporti con la corona. C'è stato qualche piccolo tentativo in un certo momento di crisi della corona di mettere in dubbio questo, ma il passaggio è stata una questione di praticamente 5 anni nello Stato su Valdino, da costituzionale a parlamentare. Dunque questa è una questione, è una proposta che suscita anche tra i liberali conservatrici delle opposizioni sia dottrinali che politiche molto forti. Ma non voglio qui, insisto, se torniamo allo statuto, titolo dell'articolo programma, ma sull'altro aspetto, non solo la politica costituzionale di Sonnino, ma c'è allo stesso momento in Sonnino la proposta di fare un partito, in questo momento penso soprattutto alla Unione di tutti i liberali conservatori, ma potenzialmente di tutti i sostenitori della monarchia liberale, molto laudo e non solo ridotto alla funzione elettorale. Dunque, il primo imperativo di organizzarsi per sopravvivere e difendere la fortezza assediata da Rossi e Neri. Secondo, un partito che deve essere capace di svolgere una funzione al stesso tempo conservativa e riformistica, un partito che dovrebbe essere capace di elaborare, di promuovere le riforme, e sì, anche io ce l'ho qui. Terzo, la questione perché nella crisi degli anni 90, con il complesso di fortezza affidata dei liberali, non si arriva alla costruzione di un partito moderno liberale, magari di un partito della difesa del torniamo allo statuto. Si potrebbe parlare di una ipotesi di un partito della reazione liberale, questo è un po' cattivo, ma... E allora lì vedrei alcune cause. Il primo è che tra le varie strategie difensive, reattive di fronte alla crisi di partecipazione, solo una, quella di Sonnino, punta sulla formazione di un partito. Ci sono altri modelli in concorrenza che vanno dalla reazione aperta con un sistema basato sull'esercito, di piccoli gruppi, barra dei casi, sviccioli alla corona, eccetera, al rapporto a soluzioni costituzionali, rafforzando o la corona o il presidente del consiglio, o a una soluzione all'interno del regime parlamentare che però punterebbe sul decentramento. È la soluzione di Rudini e è la soluzione elaborata proprio nel 96 dal suo amico e fondo ispiratore Gaetano Mosca, che dice chiaramente l'unica via di evitare di soccombere ai partiti di massa che ci minacciano e alla democrazia di rimanere in un sistema possibilmente liberale puro, democrazia che poi ci porta il pericolo del cesarismo e tutto questo, è il decentramento, cioè cosa significa? Togliere ai partiti che nella Camera bassa hanno tutto il potere, che controllano l'amministrazione, con tutto il rapporto diretto col prefetto, il ministero, eccetera, parecchie competenze, devolverle a organi decentrati locali elettivi, creando artificialmente ciò che avrebbe, secondo lui, ancora avuto, e come grande contrapeso, l'Inghilterra, una gentry, basata su Bidiston Billum e soprattutto su Billum. E questo è chiaro, significa avere il regime parlamentare, ma ridurre nettamente il ruolo del partito. Gaetano Mosca dice chiaramente che tra le sue soluzioni lui esclude la soluzione organizzazione del partito. E questa è una cosa che va bene e congeniale a socialisti clericali. Abbiamo così la soluzione partito per la strategia di difesa e minoritaria dopo negli anni 90, poi la eterogeneità dei vari gruppi che cercano una politica difensiva e reattiva, manca non so, i grossi battaglioni, c'è un partito di reazione o di conservazione, i cattolici. Non si riesce a sganciare i battaglioni grossi, pronti, che in buona parte anche avrebbero visto volentieri soluzioni notevolmente violente, dal divieto di partecipare alle elezioni politiche. La politica di reazione di fine secolo, condotta con estremo dilettantismo, secondo me poi è fallita molto meno per quel rifiuto che sarebbe stato opposto dalla parte più moderna della borghesia coinvolta nella industrializzazione, nel take-off, che non dall'errore commesso di scegliere alla fine i diritti del Parlamento come il campo per la battaglia. In questa specie di stretta finiscono sotto il fuoco incrociato dell'estrema sinistra, della sinistra liberale, anche di gente che era molto intimorita in questo momento, e persino di qualche piccola componente a destra. E arriviamo all'era Giolitti. Primo, Giolitti, il demoniaco distruttore dei partiti, che in questa maniera crea il suo sistema o lo difende. È una cosa che secondo me non regge. Vediamo fiorire i socialisti, proprio come partito organizzato, i clericali, ai quali la Santa Sede di nuovo divieta una legge partitica in senso stretto, e stanno enormemente, e fanno un parapartito come unione elettorale, dipendente direttamente dai vescovi e dalla Santa Sede. E vediamo i radicali organizzarsi finalmente ufficialmente come partito a livello nazionale, con tanto di congressi, direzione centrale e successive e necessarie battaglie e stretti dei rapporti tra direzione centrale e gruppo parlamentare nel 1904. Vorrei dare rapidissimamente qualche cifra per dare un'idea della consistenza numerica. Nel 1909 i socialisti hanno 29.000 iscritti, il partito repubblicano, che in genere si ignora, arriva a 35.000 iscritti, il partito radicale, ho fatto io un caos tentativo di stimarlo, fra i 5 e i 6.000 iscritti, tra 5 e i 6.000 il partito radicale. Il partito radicale, peraltro, fallisce sia nel tentativo di costituirsi come il centro del sistema politico di un grande, rinnovato partito di riforma inglobando i migliori dei liberali e i riformisti socialisti, cosa che avevo accennato un altro giorno, sia a livello organizzativo. Le grandi ambizioni di arrivare a raddoppiare, per esempio, i deputati, essere capaci di essere presenti in un numero altissimo di collegi, la maggior parte dei collegi elettorali, non viene raggiunto tra il 4 e il 9. Però è un partito che si può presentare nel contesto dei partiti di comitato del suo tempo, e molto bene. I liberali sono tuttora alla ricerca di un partito, si può dire. Tra l'altro era anche un titolo di un articolo intorno alle elezioni del 1909. Abbiamo già toccato un altro giorno il tema della debolezza della politica sociale liberale di Giolitti, che consiste nel fatto che non è stata appoggiata su un partito che la sorreggeva. E in un tempo più largo, fino al 14, i liberali non riuscirono a superare sia di costruire sopra le loro organizzazioni locali, provinciali, raramente ormai regionali, e superando quel dualismo governo-deputato, che è riassunto in tutte le invettive famose, che il governo compra il deputato vendendo il prefetto, diceva che poi ci sono state le versioni esattamente inverse per descriverlo. Ma non è lì, tanto il dualismo era che nel Parlamento il rapporto è fra o il governo e la maggioranza, ma quella è scarsamente non è organizzata, o il singolo deputato. E questo è dato di fondo del parlamentarismo italiano, questo rapporto tutto incentrato o sull'insieme della maggioranza e sull'insieme dell'opposizione, o su governo, deputato, governo, maggioranza, il costruire un sistema partitico moderno nelle strutture e nel funzionamento. Questo bisogna tenerlo come dato di fondo. Però il quadro non è tanto nero, non è così univoco, soprattutto perché secondo me ci sono considerevoli primi passi di formazione di partito, anche in seno ai liberali, non solo i radicali. Cominciamo dai liberali di sinistra, Donadelliani, che dopo la morte del loro leader si riorganizzano. Già prima erano un gruppo che agiva informalmente, si comportava come un gruppo parlamentare molto compatto, con associazioni locali intorno ai loro deputati, giornali, estremamente compatto e non regionale. C'è un donadellismo dell'antica Serenissima, ma ci sono anche forti presenze meridionali nello donadellismo, non è in Piemonte, eccetera. Questo anche va sottolineato. Un partito che è riuscito a superare i limiti regionali così spesso presenti. Loro si organizzano a partire dal 4 in gruppo parlamentare, con denominazioni che cambiano, che chi non si interessano, e lì c'è una continuità di gruppo parlamentare che si riunisce come tale a una specie di comitato esecutivo, un instancabile povero segretario che ogni tanto deve controllare chi veramente appartiene a questo gruppo prima di promuovere l'inclusione di questo tizio mai conosciuto in un gabinetto come sottosegretario. E arrivo quasi alla fine, sì sì. E questo gruppo arriva fino al 1914 in continuità. Poi, in difesa contro l'avanzata clericale, nel 1907 si organizza a Roma un partito largamente sorretto dalla massoneria, il Partito Democratico Costituzionale. Questo partito che si espande gradatamente e che si congiunge con questo gruppo parlamentare della sinistra democratica, cioè degli ex donadelliani, darà vita al primo partito del primo partito modernamente organizzato del liberalismo italiano, il Partito Democratico Costituzionale, che si costituisce ufficialmente nel 1913 in vista delle elezioni a suffragio universale, eccoci. E lì si congiungono vecchio liberalismo di sinistra, massoneria e riformismo sociale giolittiano. Questo partito riesce a mandare in Parlamento una buona trentina di deputati e è congiunto al gruppo parlamentare Sinistra Democratica e avranno anche loro il loro bel problema di chiarire il rapporto tra gruppo parlamentare e partito, direzione di partito. Poi Sonnino, l'uomo della grande alternativa a Giolitti, persegue la sua idea di un grande partito che unisca tutti i liberali come partito conservativo e anche di riforma. Non riesce a realizzarsi, riesce solo a realizzare una unificazione di una buona parte dell'opposizione liberale conservatrice nel centro sonniniano, che non si costituisce formalmente come gruppo parlamentare, ma agisce con riunioni abbastanza frequenti, delle quali non si sa quasi nulla perché il giornale di Sonnino, il giornale d'Italia, non ne parla mai. Ma decidono come votare nelle crisi, cosa fare, eccetera. Si comporta perfettamente da gruppo parlamentare e c'è qualche tentativo di coordinare le candidature nelle elezioni a livello nazionale, anche questo è interessante, una specie di endorsement con liste nel giornale, eccetera. Tutto un gruppo parlamentare di fatto, a livello nazionale tentativi ripetuti di costituire un'organizzazione nazionale dei liberali che falliscono, l'ultimo ancora del 11, il partito come surrogato, il giornale come surrogato del partito. Quarto, dal 1909, pressione crescente da destra e sinistra, anche questioni generazionali, anche il problema, e su questo vorrei insistere, perché troppo spesso lo si dimentica, la volontà o la veleta dei deputati di avere maggiore influenza sul governo, perché vedono il peso dell'estrema sinistra che è organizzata, si sentono già troppo rappresentati come potere effettivo, ma vogliono anche influire un po' sul governo, cosa che è molto difficile col rapporto tra governo e deputato singolo. Tutti questi fattori spingono a partire dal 1909 a una generale tendenza verso la costituzione di gruppi parlamentari nella Camera, sia nel campo liberale di sinistra, dove resta come asse del gruppo parlamentare degli ex Bernardelliani che si allarga notevolmente, ci sono cose effimere che risparmio tutte, ma anche fra i liberali moderati a partire del 9, e lì è interessante la cosa, ha anche una specie di concorrenza a Sonnino, perché si stanno raggruppando molta gente, per cui Sonnino è troppo riformatore, troppo giacobino, vuole andare con i radicali. Si fa l'occhiolino ai clericali e nel 11, di fronte al grande programma di Giolitti, suffragio universale, monopolio delle assicurazioni, che era intenzionalmente il passo a un sistema di assicurazioni sociale in parallelo al liberalismo inglese, soprattutto veramente contemporaneo, e alla riaffermazione della volontà riformistica di Sonnino si forma ciò che io chiamerei una nuova destra, molto più aggressiva, di backbench tra Sonniniani e i più moderati della maggioranza di Giolitti che se ne vanno, filoclericali e semiclericali e nazionalisti. Il gruppo dei giovani liberali o giovani turchi, che non hanno nulla a che fare con il piccolissimo partito, il cosiddetto giovane liberale di Giovanni Borelli, che agiva solo veramente sul livello pubblicistico e in certe zone, in singoli collegi, ma senza riuscire a fondare. Questi cosiddetti giovani turchi, per ironia, si costituiscono come gruppo parlamentare, il programma è molto semplice, niente suffragio universale, prendiamoci la Libia, niente intervenzionismo economico, non c'è niente monopolio dello Stato delle assicurazioni sulla vita. Il disegno è molto semplice, rinnovare il liberalismo con una contrapposizione durissima al riformismo sociale liberale di Giolitti, l'idea nazionale, organo del nuovissimo movimento nazionalista, con il quale i contatti sono, come vedremo, molto intimi, parla in quel tempo della lue riformista, e questo dà un'idea della rabbia, rivincita in alcuni esponenti sulla sconfitta del 1876, utilizzazione del potenziale di battaglioni grossi offerti dai clericali e prendere il nazionalismo come mezzo per ringiovanire, rigenerare il liberalismo come alternativa all'ideologia riformista che si vede molto bene diffusa dal socialismo al giolittismo, ai liberali giolittiani. Questo gruppo, che ha dunque una perfetta soluzione di ricambio e dove i contatti personali nella leadership con i nazionalisti sono molto stretti, c'è anche identità in alcuni casi, avrà una vita molto effimera, costituisce una federazione nazionale delle associazioni liberali con annesso congresso a Firenze nell'estate 11, poi la guerra di Libia, che è una grande interruzione della vita parlamentare e politica, bloccherà tutto, ma questo disegno sarà ripreso in parte nel 1914, quando sul fallimento della politica sonniniana, sulla disgregazione del centro, nascerà nel 14 un gruppo parlamentare liberale di destra che avrà un 70 membri più o meno, e lì rivedremo per questa gente, e vedremo allo stesso tempo nel 14 nel gruppo parlamentare nazionalista alcuni dei promotori di questa operazione dei giovani turchi, ma soprattutto il tentativo utilizzare i voti dei cattolici e giocare con la carta nazionalista sarà ripreso dai più svariati, nei più svariati momenti fra il 13 e il 14. La mancanza di livello di questo gruppo, altri fattori, contrapposizioni di liberali e nazionalisti su certe cose, eviterà che questa sarà la nuova leadership, ma loro si piegheranno sulla soluzione Salandra, che riprende parecchi di questi spunti, ma accettando una grande egemonia ancora dei liberali. Concludendo, cosa abbiamo? Nel primo Parlamento, dopo il suffragio universale, abbiamo accanto ai gruppi parlamentari dell'estrema sinistra tre gruppi parlamentari liberali, in cui circa la metà dei liberali, dei deputati liberali si organizzano formalmente. È interessante che fra i deputati di prima legislatura la percentuale è nettamente più alta. Dunque, avevo prima parlato del nesso proporzionale, commissioni, organizzazioni in gruppi parlamentari. È interessante che, contrariamente alla comune opinione, l'organizzazione in gruppi parlamentari, che fra l'altro riceve una specie di sanzione procedurale da parte della Camera, non è provocata solo nel 19 automaticamente da questa introduzione, c'è uno spontaneo graduale processo di organizzarsi sotto la pressione dei vari fattori che avevo rapidamente toccato già nell'età giudiziale, dove l'imperativo di salvarsi dall'attacco dalla concorrenza di rossi e neri è il primo e prioritario, ma per nulla il solo. Quello che invece non riesce è il tentativo della destra lombarda, il partito dell'industrializzazione. E secondo me fallisce perché si erano troppo compromessi nella reazione di fine secolo, non riescono più né a costituire un movimento di opposizione a Giolitti e Sonnino, a tutti e due sarebbe, né a influire veramente la politica giolittiana. Perdono sempre di più anche per la scelta del liberalismo moderato lombardo di cercare l'aiuto cattolico, dunque per la base urbana dove i radicali avanzano. La scelta tattica del voto cattolico implica una vincita della componente perseveranza agricolo nobiliare a favore della parte industrialista, e questo pone un altro problema: la incapacità di formare un partito dello sviluppo industriale da parte dei liberali, di fare un partito della modernizzazione, e che questo era un problema centrale si vede anche da altri sintomi: sporadici partiti economici, partiti industrialistici, una specie di lobby interpartitica che si costituisce come gruppo industriale parlamentare. In questo vacuo largo cercano di entrare prima della prima guerra i nazionalisti con il loro disegno politico, dopo altri gruppi, tra cui alla fine si sa è il fascismo. È interessante che il successo fascista è particolarmente forte in quelle zone dove la pressione elettorale dei popolari e dei socialisti è maggiore, dove appunto non esiste, dove l'elettore liberale o di centro vago non trova assolutamente un'organizzazione in cui concentrarsi. E vorrei già un po' aprire la discussione: perché tutta questa cosa non funziona, perché non si fa questo sistema di partito? Ci sono fattori istituzionali, si è insistito moltissimo sul sistema elettorale, sicuramente il collegio uninominale o anche il sistema fra l'82 e il 91, liste su base provinciale con un sistema maggioritario, non favorivano minimamente un'organizzazione nazionale. Non c'era se io volevo essere rieletto, non mi dava niente il fatto che appartenevo a un partito nazionale. Occorreva raccogliere il più possibile di voti, di consensi, di soddisfare il più possibile richieste locali, e allora il rapporto funziona col governo. Peraltro questo sistema gioca anche contro ogni tentativo di stabilire dei rapporti più stabili con grandi forze economiche, perché se io ho l'appoggio della siderurgia italiana, non mi dà quasi nulla nel collegio XY, dove c'è forse sì una fabbrica, ma ci sono anche mille altri gruppi sociali che chiedono il mio voto, e allora piuttosto soddisfo quel proprietario della fabbrica o quegli operai di quella fabbrica, raccogliendo e sommando le domande più diverse, che fra di loro sono poi mutualmente esclusive, logicamente, come in termini di programma economico-politico. Però anche bisogna considerare che l'economia italiana si organizza molto tardi in associazioni moderne, tipo Confindustria, ma non è certamente il solo, né forse il fattore decisivo. L'organizzazione parlamentare è molto importante, venne ritoccata nel 1909, ma non in maniera da favorire il nascere o da richiedere il nascere di gruppi parlamentari, ma dando più protezione all'insieme dell'opposizione al singolo deputato. C'è tutta la cultura politica, e lì passerei del tutto la parola all'amico Matteucci, che è molto esitante di fronte al fenomeno organizzazione rigida partitica, e l'esperienza dell'avversario concorrente socialista è estremamente scoraggiante, perché si dice allora, lì finiamo per essere schiavi di un apparato di partito. C'è l'attrazione fascino dell'organizzazione socialista, ma anche l'elemento negativo, così no. Però direi che bisogna vedere al di là di questo, bisogna passare ad altri elementi. C'è un sistema di cleavages in Italia, un sistema di cleavages molto molto complesso, molto più che altrove. Le grandi cleavages, industriale, agricolo, urbano, rurale, clericale, anticlericale, e tutti gli altri non combaciano affatto, non sono paralleli né analoghe, ma è una specie di sistema caotico, un groviglio caotico, cioè, per esemplificarlo, nella destra, più del 76, c'erano statalisti e minghettiani. Nella politica ecclesiastica c'erano giurisdizionalisti, separatisti, e c'erano gente che si comprendeva come professore quasi del cattolicesimo, eccetera. Per fare questo esempio, dunque le linee di divisione non erano parallele, ma c'era questo groviglio. In più, questo ha anche una delle sue ragioni nel fatto che l'Italia doveva fare tutte le varie fasi del development, della modernizzazione, in un tempo molto breve e contemporaneamente. E questo, secondo me, va visto come sfondo quando noi parliamo del problema partito, sviluppo del sistema partitico. Lì c'è una questione, era il sistema del partito non formalizzato, della rete di rapporti molto stretti tra deputati, burocrazia, certi elementi di banca, ma soprattutto amministrazione e ceto parlamentare e giornalistico di Giolitti, un'alternativa funzionale. Direi ha colmato un vuoto, non era per i giolittiani, o almeno non per la buona parte dei giolittiani, non era neanche per Giolitti un'alternativa funzionale voluta. Però bisogna vedere alcune cose. Un partito liberale o di tutti i liberali avrebbe condannato Giolitti a essere prigioniero dei liberali conservatori, gli avrebbe tagliato l'alleanza a sinistra. Un partito di soli liberali d'accordo sulla politica giolittiana, perché non è nato? Secondo me, accanto a molti altri fattori, va visto anche uno. Avrebbe richiesto di risistemare e prendere in mano con molta difficoltà la questione del funzionamento di quello che chiamerei un'area di consenso sociale liberale, con una specie di vulgata del riformismo sociale interventista, del ruolo dello Stato come promotore del progresso, di protezione dei deboli, di rifiuto dell'anti-etatismo, certi elementi solidaristici, è una cosa abbastanza confusa, che andava dai riformisti socialisti fino alla burocrazia giudiziaria e ai deputati giudiziari, dove c'era già il problema di convivenza tra partito socialista, partito radicale e liberali, e dove un'organizzazione avrebbe posto molti problemi di scelte molto chiare, di ristrutturazione, e gli avrebbe poi creato anche il problema di una forte organizzazione assai vasta diretta contro di lui alla sua destra, l'organizzazione dei liberali moderati, come riflesso di un tale partito giolittiano. E con questo mi scuso moltissimo perché sono stato molto più lungo di quello che non avessi immaginato. Interessante, ma credo che non possiamo proprio avere una discussione, credo se mi permettete due minuti soltanto per una questione che mi sembra che avrebbe dovuto essere toccato, anche e poi do la parola all'amico Mattiucci. Sì, io. Sì, no, lei vuole fare, lei farà poi. Ma posso prima toccare un problema che non è stato toccato, mi sembra, e che voglio solo alludere a un fatto, cioè perché vogliamo, un momento, possiamo ancora sentire, un momento per favore. Io parlo 5 minuti. Sì, ma adesso parlo anche io 5 minuti soltanto. Voglio arrivare una cosa, perché noi in fondo parliamo sempre anche dell'Italia e Germania, e c'è una grande differenza che mi pare che dovrebbe essere menzionata qui, che è il peso diverso del militare. Abbiamo ieri sentito dal professor Rao dalla sua bella relazione il peso che aveva nella Germania bismarckiana l'esercito, il potere di comando, eccetera. E qui vorrei solo per ricordarvi una cosa curiosa, il giudizio di un intelligentissimo colonnello piemontese di nome Vandone, che nel novembre del 66 ha incontrato in Umbria, a Perugia, i suoi vecchi amici, la coppia Star Leweit, la Fanny Leweit, una scrittrice prussiana di origine ebraica, e il suo marito Adolf Star, un uomo molto interessante, scrittore, eccetera. Ma non ci interessano qui lo Star. Lo Star ha scritto su quel Vandone: di tutti gli italiani che ho conosciuto in vita mia, questo uomo di guerra è uno dei più nobili e più liberi da ogni pregiudizio. E infatti si vede, perché questo colonnello afferma nel novembre del 66 che lui non è affatto depresso, ma dice apertamente che gli insuccessi militari di quell'anno avranno secondo lui un effetto salutare per il futuro dell'Italia. Testualmente è così. Durante il combattimento, egli disse, certamente la pensavo diversamente. Allora mi sarei fatto fare a pezzi per aiutare a vincere i nostri a Custoza. Ma ora, tutto considerato, non mi sembra un male che non abbiamo avuto quel successo del quale, per così dire, il nostro popolo si era già ubriacato in anticipo. La sciabola ha perso ora un po' del suo prestigio, ed è bene così, altrimenti avrebbe avuto troppa preponderanza. È una cosa molto curiosa, specialmente se pensiamo a quello che è successo in Germania, dove sono state 3 vittorie di 3 guerre, mentre l'Italia ha vinto la guerra, ma aveva battuto le battaglie di Custoza e Lista. Si vede che questo anche spiega un po' forse la differenza dello sviluppo in Italia e in Germania. Però le cose comuni di nuovo in Italia, in Germania, in Austria, eccetera, di questa incapacità del liberalismo di organizzarsi veramente, definitivamente in un partito di massa, anche in Germania con i due partiti di nazionali liberali e di Volkspartei, peggio ancora in Austria, dimostra che ci sono appunto certe comunità che non dipendono dagli sbagli di uno o un altro politico e dalle debolezze di uno o dell'altro, ma veramente dal problema che il liberalismo era un movimento di notabili, di onorazione, ed era per la sua natura quasi incapace di organizzarsi in un grande partito di massa. Finito. Libero. Le parole, già per la questione del tempo, anche io direi che questi insuccessi dei liberali, no? Cui abbiamo sentito e parlato in questi giorni, relativi insuccessi, si spiegano molte volte, e soprattutto anche in Germania, dalla difficilissima situazione generale politica nella quale i liberali dovevano svolgere la loro attività. Non si può parlare semplicemente, come ha spiegato molto bene Raul ieri, di una capitolazione, però di un certo pragmatismo con il quale volevano realizzare quel po' in molti pochi passi che c'era da realizzare. E qui torniamo proprio sul problema di cui abbiamo parlato all'inizio, su quel ritardo storico delle due nazioni. Perché se Ulrich oggi ha sottolineato in modo molto molto dettagliato le molte difficoltà che l'Italia doveva superare in questo periodo, contemporaneamente, alla lui, anche per la Germania, cioè per una nazione storicamente divisa in tanti stati, i quali a loro volta avevano realizzato lo Stato moderno, con le conseguenze di una effettiva burocrazia e anche di un patriottismo particolare. Le nostre monarchie erano ben radicate nei sentimenti della popolazione, cioè ritardo storico. Dall'altra parte si potrebbe domandare se il ritardo è l'unica misura, perché se parliamo di ritardo mettiamo per sicuro che ogni nazione deve arrivare allo Stato nazionale unitario. Forse il sistema federale potrebbe essere una alternativa, e noi abbiamo visto che poi quella grandiosa formazione delle nazioni, degli stati nazionali liberali, non ha poi funzionato molto bene, come abbiamo visto nella prima guerra mondiale, cioè, anche nella seconda, cioè situazione di ritardo storico, situazione di transizione, quello che alla fine abbiamo detto anche ieri, che il liberalismo è una fase di transizione tra l'ancien regime e la moderna democrazia di massa. Infine, ancora una cosa un po' particolare, abbiamo sentito sia nella relazione di Becker e anche in quella di Uccidi come la formazione di questi stati, di queste società liberali, proprio in Italia, in Germania, ha avuto tante difficoltà dagli scontri frontali con il cattolicesimo, con questa altra concezione di società. E se in Germania questo scontro è stato molto più rigido a causa di questo filone protestante hegeliano e statista. Dall'altra parte vediamo in Italia questo peso istituzionale di cui Utili ha parlato. In Italia esisteva una istituzione, una organizzazione ben forte, che però non è entrato nello Stato, ma è rimasto fuori di questo Stato liberale. Questi sono alcuni brevi appunti, cioè accanto alle tante comunanze ci sono tante differenze, e mi pare che studiamo questo periodo dovremmo poi, oltre a questi grandi contributi che abbiamo sentito, dovremmo studiare anche queste differenze che passano tra regione e regione e tra le varie esplicazioni delle culture liberali e nazionali. Differenza enorme tra la Prussia e la Baviera, differenza enorme tra i Napoli e il Piemonte. Ecco, ciò basta per questo momento, perché ho l'impressione che l'amico Matteucci, che ha dovuto seguire tutte queste nostre discussioni particolari e dettagliate, adesso forse tornerà proprio all'inizio del nostro seminario, quando si faceva quel quadro bellissimo. Ma anche io vorrei parlare in modo molto sintetico e molto brevemente, per ribadire anche cose che ha già detto lei, rilassandomi come mi ha invitato. Alla chiusura della mia introduzione io dicevo che c'è stato, a mio avviso, un fallimento sia della storia del pensiero politico nel farsi una storia del liberalismo, perché si è dato dei liberalismi paralleli. E io mi chiedevo se invece da parte di storici più legati ai fatti e meno ideologizzati si poteva alla fine concludere sulla possibilità o sulla impossibilità di fare una storia del liberalismo. Se noi esaminiamo così singoli contributi, si ha anche spesso l'impressione che noi abbiamo fatto ancora una storia dei diversi liberalismi e che è impossibile fare una storia del liberalismo. Però io non credo che se noi, quando noi leggeremo con attenzione gli atti, quando verranno pubblicati, e se ci poniamo da un'ottica un po' diversa, di non trovare tanto le affinità ideologiche, ma di inserire il liberalismo europeo proprio nella cornice di quella che è la caratteristica della storia europea rispetto alla storia di altri paesi dal 500 ad oggi, cioè il momento dello sviluppo, proprio in senso tecnico di scienza politica, dello sviluppo, forse potremmo arrivare a una storia del liberalismo che salvi però tutte le differenze, ma trovandone un elemento comune, un elemento unificante. Proprio perché, a mio avviso, questo seminario ha messo, proprio è stato un seminario di storici, i quali hanno colto quelli che erano i concreti, gli effettivi problemi che i singoli movimenti liberali hanno dovuto affrontare. E questo è cosa voglio dire, che nei diversi paesi e nei diversi momenti sono diversi i problemi oggettivi. Può fare una storia dell'hegelismo, ma la storia dell'hegelismo è la storia della fortuna di una filosofia. Il liberalismo è una dottrina politica, e una dottrina politica va proprio colta nel suo impatto con la realtà. E quindi, nei paesi diversi, che hanno diverse strutture istituzionali, pensiamo, l'ha accennata anche lei, il peso diverso di quella prima forma di integrazione della comunità politica, che è lo Stato burocratico, lo Stato territoriale. Altra forma di integrazione che gioca un peso diverso, certamente in Italia e in Germania ha lo stesso funzione, lo stesso ruolo, la nazione. Ma la nazione, in America il problema della nazione non nasce come nasce con caratteristiche molto minori in Inghilterra. Quindi abbiamo diverse strutture istituzionali, abbiamo diverse forme di integrazione sociale, il momento della nazione, per cui spiega come da noi i liberali a un certo momento sono sconfitti o vengono risucchiati dal nazionalismo. Abbiamo culture anche diverse, per cui il problema della libertà viene sentito in modi diversi. Abbiamo diversi il problema della modernizzazione di carattere economico, perché, come ha accennato anche lei, la Germania e ancora di più l'Italia, il problema della modernizzazione industriale, si arrivano in ritardo e quindi devono adottare tecniche diverse, non possono essere sempre pienamente liberisti, devono, per la modernizzazione è necessario anche essere interventisti. Poi le cose che ha sollevato Schier, per esempio, sono ritornate. prima donna, sono ritornate, che anche la struttura sociale, lo stato di ceti, ha un ruolo. Pensiamo che invece in Inghilterra lo stato di ceti è già superato, diciamo, grosso modo, all'inizio del 600. Poi la presenza dell'organizzazione della Chiesa cattolica, un'organizzazione sociale capillare. Quindi è impossibile che gli uomini politici che hanno un'aspirazione alla modernizzazione, alla libertà, possano dare delle risposte uguali in situazioni diverse, con sviluppi e con culture diverse. E io credo che, ripensando così su un piano, dopo non più particolare, ma sul piano proprio di una storia europea, si potrà riscrivere, proprio a contatto con problemi concreti, una storia del liberalismo come una delle più importanti componenti dello sviluppo dell'Europa e della transizione dal liberalismo alla democrazia, ma io spero che sia sempre ancora una democrazia liberale. Grazie. Dann im Verlauf des ganzen Seminars sehr wenig entscheiden muss, wie es zusteht. Wir haben natürlich ja sehr viel Leben gesprochen und ich wollte auch nochmal zurückkommen auf den Anfang des Seminars. Wir haben begonnen mit einer Fragestellung des Begriffs Liberalismus und haben versucht, in sehr vielen Vorträgen diesen Begriff ein bisschen zu erhellen. Und in vielen Vorträgen, die zum Teil sehr ausführlich waren, ich finde es halt ein bisschen zu ausführlich und dass wir dadurch oft Diskussionen und wir auch so oft in einer Art der Forschperspektive sind. Wir müssen an der Höhe der Zeit hängen. Ich könnte für mich diese vielen schlagartigen Heldenbilder irgendwie einzuordnen in einem größeren Zusammenhang. Dass dort, wo Vorträge gehalten wurden, bewusst auch provokativ formuliert man, das vergisst man dann, wie man dann diskutiert, wie man dann wirklich war. Das fand ich sehr bedauerlich. Und das am Ende des Seminars, für mich, dass meine persönlichen Eindruck jetzt, das soll keine Zusammenfassung sein, doch ein gewisses Gefühl des Unbehagens bleibt, trotz der vielen wertvollen neuen Erkenntnisse. Und das wollte ich eigentlich noch sagen, dass man es glaubt. Ja, Entschuldigung, da müssen Sie von den Koordinatoren eine illiberale Verhandlungsstellung fordern. Dann hätte man nach 40 Minuten sowohl dem Herrn Montilli wie dem Herrn Ulrich und manch anderes Wort erzielen müssen. Dann hätte man vielleicht was vorne sagen können, dass das Wort nicht so gut ist. Das ist gesagt, Herr Wesel. Daran haben die meisten ja auch erhascht. Das ist natürlich das Problem. Wir haben doch versucht, gerade die Portisten immer wieder zur Diskussion aufzufordern. In der Praxis ist das dann, gebe ich gerne zu, besonders am Schluss, ist das manchmal zu kurz gekommen, weil man eben doch noch das haben wollte, wenn man die Herren schon da hat. Und was die Details betrifft, das ist natürlich überhaupt ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn man zu früh zur Synthese und zur Generalisation kommt, ohne die konkrete Situation, ich finde, bleibt das Ganze in, letzten Endes in Banalitäten und vagen Verallgemeinerungen. Es ist mal so, dass die Wahrheit in den Einzelheiten oder der liebe Gott oder der Teufel zu verschieden ist im Detail. Steckt. Und ich glaube, dass zum Beispiel gerade etwa ein Vortrag wie der von Herrn Corsini, der dieses ganze Problem des Liberalismus, des Europäischen, nur in den kleinen Trentino zeigt, wo alle diese Probleme auch, die wir hier im Großen behandelt haben, in Preußen, in Baden, in Italien, in der österreichisch-ungarischen Monarchie, da in den Trentino hier aufgezeigt werden, besonders für mich zumindest besonders illustrativ war. Gewiss, es hat dann die Zeit gefehlt, dass wir noch etwa eine Stunde über die allgemeinen Gemeinsamkeiten diskutiert hätten. Ich habe zum Beispiel jetzt versucht, mit dieser Sache mit dem Militär, mit den militärischen Niederlagen und in ein Element hineinzubringen, das bisher also nicht behandelt worden ist. Aber Sie haben sicher recht, das ist immer wieder hier, das ist ja schon das fünfte Seminar, das ich mitmache, immer wieder das Problem, dass es sehr schwer ist, genügend Zeit für die Diskussion, vor allem auch für die Diskussion der Vorsitzenden. Das wird dann eben vielfach in privaten Gesprächen fortgesetzt, aber ich glaube, dass es trotzdem das Seminar trotzdem ein Erfolg war, aber ich wünsche es la nuova destra lombarda industrialista come contrapposta alla consortia, diversa per cultura, per composizione sociale in parte, non è una questione di borghesia e nobiltà, è che la parte nobile è direttamente protagonista della industrializzazione, diversa per programma, diversa per concezione della lotta politica, del ruolo dello Stato, dunque nettamente diversi. Colombo, Pinetti, eccetera, sono protagonisti di questa destra che appunto ha come associazione locale il Circolo Popolare. Le due associazioni a Milano, Costituzionale e Circolo Popolare, sono nettamente diversi anche nello stile di fare politica. Dunque, d'accordissimo su questo, non identificherei il Corriere della Sera con la posizione di questa nuova destra lombarda è ancora una posizione diversa, non c'è assolutamente la contrapposizione liberalismo-democrazia, il no praticamente all'allargamento della partecipazione che c'è chiaramente nella posizione del circolo popolare, dell'idea liberale, cioè la rivista e tutto ciò che è il nucleo di questo gruppo. Albertini è già una nuova generazione e inoltre tutta un'altra visione, l'influenza della cultura inglese su Albertini è molto forte, dunque farei delle distinzioni nette. Politica coloniale, lì invece è così che per ragioni assai diverse, negli anni 90 sia Consortoria che l'espressione che si può molto criticare, nuova destra industrialista lombarda, sono contrari. È interessante che quando i loro progetti politici sono falliti, nell'11, anche per ragioni politiche interne, questo gruppo, tutte e due queste componenti, ingoieranno il colonialismo, l'idea della guerra libica, proprio anche perché quello fa parte del programma di questo nuovo cartello di destra che cerca di descrivere, che cerca di utilizzare i nazionalisti e i cattolici. Questo è molto telegraficamente, magari dopo se ne può parlare direttamente. Nel momento in cui si chiude, si chiudono i lavori di questo seminario, io innanzitutto a nome dell'Istituto di Cultura porgo vivissimo ringraziamento a nome dell'Istituto Storico Italo-Germanico, anche per l'incarico dell'onorevole Chesse, che presiede l'Istituto Italo di Cultura. Porgo vivissimo ringraziamento innanzitutto ai professori coordinatori, perché tra il resto, tanto osservando il fratellino, hanno dato un contributo attraverso una fatica non lieve nel conservare la possibilità di dialogo, anche se non tutti qui riusciamo con molta facilità a capire l'altra lingua, e forse, se mi permette, questa è stata un poco anche, però, ma si è rivelato anche in altri seminari, la difficoltà per cui non sempre la discussione però può seguire così largamente come sarebbe desiderio. Però detto il ringraziamento ai coordinatori e a tutti gli altri relatori per contributi interessantissimi che hanno dato della conoscenza reciproca di questi nostri mondi, e spero che riusciamo l'attenzione sul movimento liberale, e mi pare però che debba essere sottolineato che anche i giovani borsisti sono intervenuti numerosamente, forse avrebbero avuto il desiderio che anche noi, il desiderio che ci fosse maggior spazio per interventi più numerosi e più ampi, ma la partecipazione ha dato sicuramente una nuova conferma della vitalità di questa formula che è stata trovata e ormai si può dire collaudata, perché siamo arrivati, spero, ormai ad avere, come dice la professor Vasi all'inizio, spero, il quinto anno di vita di questo nostro istituto. Ma e per chiudere, prima di fare gli auguri a tutti quanti di buon ritorno alle loro case, e se sarà possibile di rivederci in altre occasioni, nel prossimo anno, qualche anno successivo, vorrei sottolineare che le ultime parole del professor Matteucci hanno veramente dato il modo di poter constatare come la discussione, anche su piani e su argomenti diversi, abbia avuto una sua organicità, perché si è potuto partire da delle considerazioni quasi allarmistiche che aveva fatto all'inizio il professor Matteucci, domandandosi che cos'è il liberalismo e se si può parlare, vero? Alla fine ha concluso però che attraverso questa analisi, a volte anche in funzione, anche su fatti particolari, pur essendoci questa difficoltà di trovare una scia, una comune, però un denominatore comune, però esiste e ritratto in quelle situazioni molto diverse dei tre paesi primi esami. Però che tra le diverse forse, da più diverse minute, era quella dell'intero ungarico, proprio perché non aveva i problemi che aveva la Germania, che arriva l'Italia dal punto di vista della maggior parte. Ecco, io non vorrei aggiungere altro. Ringraziamento a tutti, soddisfazione di fare di questi nostri lavori. Auguriamo di ritornare tutti al loro caso con un buon viaggio e che conserviate il ricordo di questo tentativo, già ormai avanzato, attraverso la cultura, di superare anche frazionamenti precedenti e attraverso la cultura di trovare anche ciò che unisce tutti i popoli, anche nella loro storia.